gambe da lei sono odiose. La faccia da lei è unica e mi sembra. Lei per me è numero uno. Con lei il pieno non mi manca niente a mio cuore. Lei è bellissima in mia vita.